mio corno a te la spari orrendo. Arretra, la tua man di sangue intrisa. Presagio mio feroe! Tu, mio figlio, non hai i regni miei stan presa a lui. E rende a te quel uom, chi rende a me quel uom? C'è! Sole sguardo! Prostrate, prostrate.